Incontri di Gianfranco Fabi. Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà. E catene di monti coperte di neve. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Con queste note di Francesco Guccini iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno e buona domenica a Giampiero Calzolari. Buongiorno a voi. Francesco Guccini, un bolognese di Giampiero Calzolari, un bolognese anche lei? Sì, un bolognese, infatti Guccini fa parte un po' del patrimonio culturale, non solo culturale, della città, insomma, ormai. Bologna che è diventata in primo piano con la tragica morte di Dalla nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, adesso anche Guccini è un grande interprete. Cos'è che caratterizza la bolognesità? Beh, direi la dimensione un po' provinciale, se vogliamo, il fatto che è una città dove ci si conosce praticamente tutti, e poi una comunità di operosi, insomma, la gente ha voglia di risolvere anche in prima persona i problemi della comunità. Una piccola grande città pragmatica, possiamo definirla così. Ecco, Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo. Granarolo è una delle più grandi industrie italiane nel settore del latte, latte e derivati. Un settore tradizionale, un settore classico, proprio in due minuti la storia della Granarolo. Beh, Granarolo è un gruppo, nasce come cooperativa più di 50 anni fa, era la risposta, diciamo così, alle condizioni di vita drammatiche dei mezzadri della bassa bolognese. Poi, come dire, un po' il legame ancora una volta con la città e la comunità, un legame anche molto forte col mondo, diciamo, operaio, i contadini e quant'altro. Poi ha scelto una strada di crescita anche molto pragmatica. Man mano che cresceva, il gruppo si è spostato da Bologna e oggi non è più un gruppo squisitamente bolognese, anzi, direi la verità. Noi siamo bolognesi di origine, lombardi come dimensione economica, e il numero più importante dei nostri soci, più numeroso dei nostri soci, è in Puglia. Abbiamo 210 soci pugliesi. Quindi è una società in pratica nazionale ormai. Oggi è il più grande gruppo cooperativo nazionale. Ecco, si può ancora definire un gruppo cooperativo o è diventato un gruppo, non dico una multinazionale, però una vera società, una vera impresa un po' più monolitica, che ha sicuramente degli apporti dai produttori, però forse l'immagine della cooperativa è qualcosa di diverso, o sbaglio? Granarolo ha introdotto una modalità societaria che poi è stata ripresa anche da altre esperienze cooperative. La cooperativa controlla un SPA, quindi la proprietà è in capo ai produttori, che è la cooperativa Gran Latte. I produttori esprimono nel consiglio di amministrazione dell'SPA, per una quota di maggioranza, avendo nel controllo l'80%, i consiglieri. Quindi la filiera, diciamo, della governance è assolutamente garantita. I due strumenti servono perché in cooperativa, diciamo così, si svolge l'attività più prettamente sociale, la raccolta del latte, la ricerca sulla qualità delle stalle, il supporto agli allevatori e quant'altro. Nell'SPA si aggredisce il mercato, quindi un connubio tra socialità e mercato molto innovativo e direi anche molto efficiente, visto i risultati. Un po' tra produzione e vendita in un certo senso. Ecco, sì. Ma talvolta le cooperative sono accusate di avere un po' di benefici che distorcono un po' la concorrenza rispetto alle altre società, alle altre imprese. Ma guardi, intanto il modello di cui stiamo parlando non usufruisce nessuno di questi benefici, perché ovviamente l'utile, quando c'è, si realizza nell'SPA. Per cui noi spesso e volentieri siamo i maggiori contribuenti all'Agenzia delle Entrate di Bologna, insomma, per capirci. Quindi di benefici non ne abbiamo. Quindi il fatto che voi diate bene fa benefici all'erario. Assolutamente. Ecco, sì. Giampiero Calzolari, ricordo, presidente di Granarolo, per quale caso, per quale casualità o per quale scelta è arrivato nella Granarolo e poi a fare carriera all'interno della Granarolo? Diciamo, io ho iniziato a lavorare in cooperativa, insieme all'altro gruppo di ragazzotti. Allora costituimmo una cooperativa giovanile, poi dopo diversi di noi hanno fatto altre esperienze, poi sono rientrato in cooperazione, poi come dico sempre io, passano dei treni e se uno ha la fortuna di essere sulla banchina. E quindi devo dire che inizialmente non mi sarei mai aspettato di diventare il presidente della cooperativa, un po' della miraglia, insomma, della cooperazione agroalimentare di questo paese. Ecco, quindi... la cooperazione è ancora una realtà molto forte in Italia, non solo in campo agricolo? Beh, la cooperazione oggi, poi, che sta lavorando per un processo di unificazione delle tre centrali, è una delle gambe, diciamo, più importanti del sistema produttivo di questo paese e ha una peculiarità, che i soci sono le persone e non il capitale, quindi, diciamo così, ci distinguiamo pur non avendo una funzione marginale. Spesso e volentieri si tende a rappresentare la cooperazione come un aspetto marginale. Se lei viene a Bologna se ne renderà conto che non è così, perché tutte le più importanti imprese, certo, sono cooperative. Ecco, in un momento in cui i capitali non hanno una grande fama, anzi la crisi, esatto, finanziaria in cui ci troviamo è stata in gran parte provocata dagli eccessi della finanza, ecco, rimettere al centro il lavoro e le persone è certamente qualcosa di positivo che riesce concretamente, non è solo un'etichetta. Ma io penso che le persone siano un asset competitivo, non siano appunto né un'etichetta né un peso, quindi noi, per parte nostra, le persone al centro sono i nostri soci, che sono gente che tutte le mattine si alza molto presto per andare in stalla e gestiscono delle aziende anche molto importanti e complesse, e poi sono ovviamente i nostri lavoratori e poi sono i nostri consumatori, quindi vuol dire questa attenzione che non ci distrae dal fatto che comunque col capitale dobbiamo fare i conti e con la finanza dobbiamo fare i conti, ci rende anche un pochino più coerenti tutte le mattine con le nostre sensibilità, diciamo così. Ecco, la vostra strategia è quella di stare sul mercato, un mercato tradizionale. Com'è il mercato del latte e derivati? Beh, si avrà visto anche gli ultimi dati, un po' delle statistiche, anche i consumi di generi alimentari sono in flessione. Questa crisi ormai è talmente lunga e talmente pesante che incide anche molto pesantemente sulle abitudini delle famiglie, quindi anche il latte non è indenne. Si risparmia anche sul pane e latte. Si risparmia anche sul pane e sul latte, ovviamente. Io dico sempre, noi abbiamo la fortuna che produciamo qualcosa che va consumato quotidianamente e che ha un costo tutto sommato contenuto, e allora magari si può decidere di non rinnovare il cappotto, ma il latte lo si compra tutti i giorni. Questo per noi è una fortuna. Certo, bisogna tenere conto che le famiglie hanno meno risorse a disposizione e quindi fare anche delle strategie che vadano un po' in quella direzione, senza, come dire, banalizzare un prodotto che è il frutto di una grande sapienza. Insomma, i nostri allevatori sono ormai, hanno grandi competenze in termini di genetica, di igiene animale, di alimentazione animale. C'è un sapere sia alla stalla che poi negli stabilimenti molto alto, quindi è un prodotto che non va banalizzato, va innovato, perché come tutti i mercati ogni tanto bisogna inserire novità. E comunque costa meno di un litro di benzina, un litro di costa latte. Meno di un litro di benzina, costa un litro di latte quanto un caffè, costa come un giornale, insomma, sicuramente costa molto. Forse meno. Forse non si riflette abbastanza, esatto, sul valore, esatto, sul valore nutritivo, sul valore e anche... E poi tutto quello che c'è dietro, ecco, cioè tutta questa filiera di persone. Lei tenga conto, noi abbiamo 1000 allevatori, tutte le mattine 70 automezzi in Italia si girano le 1000 stalle, abbiamo 6 stabilimenti, 1200 camioncini che consegnano il latte fresco tutte le mattine a 50.000 nei punti vendita, c'è una quantità di persone che lavorano per consegnare un prodotto di qualità e fresco che merita quell'euro 50, insomma. Ecco, vediamo poi anche nella seconda parte questo tema della qualità, dell'innovazione. Solo una battuta: è possibile fare innovazione anche in un settore così tradizionale, che il latte sembra il latte, non si può aggiungere nulla, eppure è possibile fare innovazione? È possibile e bisogna farlo, perché il mercato va anche interpretato, le nuove persone, le nuove generazioni, le nuove abitudini alimentari. E ovviamente coniugare la tradizione del quotidiano con elementi di innovazione è la scommessa vincente. Vedremo come voi cercate di vincere questa scommessa, qual è la strategia e perché il latte fa bene, possiamo dire così. Grazie. Incontri. E catene di monti coperte di neve saranno. A ancora con Francesco Guccini. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Buongiorno e buon pomeriggio anche a Giampiero Calzolari, presidente di Granaloro, che è qui con noi. Abbiamo parlato nella prima parte di questo mercato del latte, della presenza di Granaloro, che è una delle maggiori società, anzi la maggiore società italiana presente in questo settore. Ecco, com'è diventata la maggiore società italiana Granaloro, Giampiero Calzolari? È diventata passo passo. Lei si immagini che ho una foto degli anni 70 dell'assemblea di Granarolo di Bologna e c'era un palazzo dello sport pieno, corrispondeva a quel modello economico di quegli anni. Poi c'è stata una trasformazione. Oggi, se lei viene a Bologna, trovare una stalla è molto più difficile, anzi ci vuole una ricerca minuziosa, e quindi ci siamo spostati man mano alla ricerca di mercati e di produzione. Di fatto, con un modello di questo tipo, l'SPA acquisisce le centrali e intorno si costruisce il nucleo dei soci cooperatori della cooperativa. Si investe crescendo, ma clonando sempre e moltiplicando il modello, che è lo stesso: cooperativa, conferimento, proprietà dell'SPA. Ecco, forse non tutti sanno che Granarolo è il nome di un comune. Sì, il comune dove inizialmente i 20 mezzadri degli anni 50 costituirono la prima latteria, che poi è diventata appunto questa grande cooperativa con 1000 allevatori, 1000 produttori. È difficile controllarli tutti. Ecco, questa è la vera peculiarità nostra. I nostri soci sono fidelizzati, si sentono parte dell'impresa, non soltanto fornitori. Abbiamo rapporti sistematici, diciamo una democrazia economica vera. Insomma, poi chiaramente dobbiamo rispondere alle aspettative, quindi la liquidazione deve essere la migliore possibile, però anche i progetti di crescita vengono condivisi. Credo che anche faccia parte della dignità del lavoro anche questa, no? Non mi limito a vendere il prodotto, ma ne seguo anche un po' l'evoluzione, il collocamento sul mercato. Soprattutto oggi anche le aziende agricole mettono in campo giovani generazioni, laureati, veterinari, agronomi, insomma, quindi c'è un bel dialogo con i nostri anche soci. Le aziende agricole devono innovare le procedure, sì, nei processi, nella qualità. Ecco, Granarolo poi è cresciuta anche grazie alle acquisizioni, posso ricordare Centrale del Latte di Milano, Gioia del Colle, recentemente abbiamo acquisito sempre nel milanese Ladbri, che è un'azienda che produce sostanzialmente caseari freschi e fa un 130 milioni di fatturato. Quindi le acquisizioni per crescere sono importanti. Poi l'altro canale, diciamo, per crescere sono le innovazioni di prodotto. Noi abbiamo un obiettivo importante, è quello di raddoppiare il fatturato nei prossimi 4 anni. E ovviamente è un modo anche per metterci tutti in tensione positiva, ci diamo un obiettivo. Tutti sanno che ogni giorno bisogna fare qualcosa in più di quello che si è fatto il giorno prima. Questo è il modo anche di reagire un po' alla crisi, no? Ecco, ma diciamo appunto anche nella prima parte l'innovazione che è importante. Il latte però è il latte, se è buono è meglio, però oltre che essere buono, di qualità, sano, sicuro, magari con qualche giorno di conservazione in più, ma senza modificarne le qualità. Ecco, come si può andare oltre a questi requisiti? Allora, intanto noi diciamo sempre che il latte deve essere buono alla stalla, per cui la parte più sensibile, più importante della nostra filiera sono davvero le stalle dei nostri soci, perché dopo noi dobbiamo cercare di comprometterlo poco, perché il latte deve essere di qualità ed è così. Noi Granarolo ha di fatto negli anni passati inventato l'alta qualità del latte, che è stato un modo anche per resistere all'invasione dei latti d'Oltralpe, no? Ovviamente che hanno condizioni ambientali più favorevoli. Dopodiché questo latte è una materia prima preziosa, ha un contenuto appunto qualitativo molto alto che si presta, e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente spostato un po' l'attenzione dal latte soltanto al latte allo yogurt, dal latte alle mozzarelle, tutte però con prodotto italiano di alta qualità. Siamo l'unico gruppo industriale di questo paese che può mettere la bandierina sui propri prodotti, la bandiera italiana dove c'è scritto fatto in Italia con solo latte italiano. Ecco, esistono gli assaggiatori del latte? Sì, ci sono panel di esperti che ci aiutano a individuare le caratteristiche. Il latte ha un buon sapore quando è di buona qualità, il grasso, le proteine, insomma sono tutti componenti che, e la freschezza ovviamente. Nello stesso tempo bisogna garantire sicurezza, quindi questo latte viene consegnato quotidianamente, è oggetto di controlli specifici, e poi da quel momento lì in poi la trasformazione, la catena del freddo. Oggi noi cosa stiamo cercando di fare? Di introdurre degli elementi, diciamo così, di innovazione, sia il prodotto base, e può essere il packaging, il mezzo litro piuttosto che il litro e mezzo, in bottiglia piuttosto che in cartone, insomma. innovazione di packaging. Siamo usciti con un latte Yomo, per esempio, che ha un contenuto di funzionali, quindi che sopperisce un po' ai prodotti di consumo che sono molto più costosi. Poi ragioneremo in futuro, stiamo uscendo con prodotti per bambini, stiamo uscendo con diverse referenze. Diciamo anche un prodotto per gli islamici, mi sembra. E diciamo così, entro l'anno usciremo anche con un prodotto per un mercato importante, perché lei sa che ormai questa è una popolazione che ha dei numeri molto importanti, che oggi non hanno un prodotto che corrisponda alla loro tradizione alimentare. Noi ci candidiamo a mettergli a disposizione un prodotto che sia vicino alla loro tradizione, alla loro cucina. Ecco, in questo settore ormai c'è un vero mercato, c'è una vera concorrenza, ci sono molti produttori, quindi c'è un confronto diciamo di qualità-prezzo. Il vero mercato oggi si riduce di fatto a un numero non altissimo di produttori. Se parliamo di produzione industriale, poi ci sono una miriade di artigiani e hanno una fascia ovviamente di consumo più locale. Oggi ci sono alcuni grandi operatori nazionali, c'è la grande distribuzione che fino a qualche anno fa non aveva produzione a marchio del distributore, oggi ha una quota importante e anche questo ha contribuito a cambiare un po' le regole del gioco. D'altra parte in Europa già era così da tempo, l'Italia è arrivata un po' dopo, ovviamente ci ha creato qualche problema, anche ci ha dato anche qualche stimolo a migliorarci ulteriormente. Non le è venuta la tentazione qualche volta di comprare del latte a buon prezzo? Beh, se ci viene anche la tentazione ci pensano i nostri soci, perché la prima missione è valorizzare il latte dei soci. Poi può capitare anche di fare dei prodotti con dei latti non nazionali, ma sono prodotti che non rispondono pienamente all'obiettivo. L'obiettivo è valorizzare il latte dei nostri soci e il latte italiano. Per quello siamo nati e quello che stiamo facendo. E c'è ancora spazio per questo? C'è spazio a condizione di tenere alta la barra della qualità, di avere un rapporto di grande reputazione con i consumatori, e di essere credibili quando si promette una qualità quotidiana e non si possono avere incidenti, e poi, come dire, di essere anche un soggetto che fa parte della comunità, quindi la comunità dei consumatori. Tenga conto che noi tocchiamo 10 milioni di famiglie con i nostri prodotti. Ecco, in un mercato che tuttavia è un mercato stagnante, la popolazione, non c'è una crescita demografica, sono stagnanti i consumi. Ecco, lei però ha detto vogliamo raddoppiare il fatturato, quindi c'è anche una strategia di acquisizioni. Voi avete tentato negli anni scorsi di conquistare Parmalat, poi sappiamo com'è andata. Avete anche una prospettiva di allargarvi, se possibile ci sono le occasioni anche all'estero? Dunque, Parmalat diciamo ormai appartiene al passato, quindi non ce ne occupiamo più, almeno ce ne occuperemo ovviamente come concorrente in una logica di mercato ovviamente molto, vuol dire, aperto alle iniziative di ognuno. Ci sono spazi per crescere in Italia acquisendo appunto delle imprese o appunto lavorando sull'innovazione. Uno spazio importante sarà crescere all'estero, quindi stiamo guardando, insomma nei nostri dossier ci sono delle iniziative di acquisizione che si portino dietro mercati che noi oggi non frequentiamo adeguatamente, che sono i mercati all'estero, dove ovviamente però bisogna andare con produzioni italiane riconosciute all'estero, le grandi DOP, grana, parmigiano, gorgonzola, dove il Made in Italy può dove essere, il Made in Italy è, può essere un dove da un lato ci vuole la tradizione ma dall'altro ci vuole anche una struttura di dimensioni importanti. L'idea di raddoppiare il fatturato che noi abbiamo condiviso con i nostri soci deriva anche un po' da questo. Noi siamo sicuramente il più grande gruppo italiano, ma appena andiamo oltre le Alpi siamo, come tutte le imprese italiane, dei nani. Però ormai il mercato domestico ha dimensioni quantomeno europee, noi ci dobbiamo cimentare con questo, ovviamente tenendo fede alla nostra matrice cooperativa, quindi i nostri soci giustamente non ritengono opportuno andare a delocalizzare, ma non avrebbe senso, quindi dobbiamo produrre in Italia e vendere all'estero, sostanzialmente è questo. Cosa chiede il sistema Italia in questa strategia, in questa prospettiva? Cosa chiedo io? Io sì. Chiederei di esserci. Come presidente di Granarolo, soprattutto. Chiederei di esserci perché, se posso tornare un attimo al passato, l'operazione Parmalat, operazione che in sé comunque era molto difficile. Molto ambiziosa. Molto ambiziosa. Si poteva perseguire solo se il sistema si fosse messo in gioco. Sistema significa le politiche agroindustriali, il governo, significa il sistema delle imprese, quindi noi e non solo noi, e significa il sistema delle banche. Tutte cose che sono mancate. Noi perdiamo pezzi del food e non solo del food di pregio di questo paese perché non riusciamo a reagire come sistema. tedeschi, francesi invece sono molto più bravi e i risultati si vedono. Quindi ecco, la prospettiva è comunque di affrontare anche questi concorrenti difficili, andare magari a affrontare sul loro territorio, cercare di vendere anche quello che può essere, non dico i frigoriferi degli esquimesi, ma quasi. Beh, i prodotti alimentari italiani sono riconosciuti nel mondo come prodotti di qualità, di tradizione, che ovviamente sono apprezzati dai consumatori di tutto il mondo e in Europa in particolare. Il problema è avere una dimensione, una massa critica e una struttura commerciale adeguata per affrontare quei mercati dove non è facile entrare, perché poi le barriere ognuno mette quelle che riesce a mettere, quindi i grandi gruppi di quei paesi sono ben organizzati, quindi non sarà una battaglia facile, però noi dalla nostra abbiamo una percezione dell'Italia, almeno nel campo dell'alimentare, di alto livello. Un'Italia in cui Bologna è ancora la capitale in questo settore? Beh, l'Emilia, Bologna, la cooperazione agroalimentare, teniamo conto che oggi rappresenta un terzo della produzione agricola di questo paese e c'è spazio per crescere ulteriormente, quindi ci sono le condizioni per vincere questa sfida. Allora ci possiamo dare appuntamento tra un paio d'anni quando il fatturato sarà raddoppiato. Va bene, volentieri. Grazie mille, volentieri. Grazie a Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, di essere stato con noi questo pomeriggio. Abbiamo parlato di latte e speriamo di aver favorito anche un po' la digestione di chi ci ascolta. Grazie anche a Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica e a domenica prossima.